Lida avrebbe voluto restare un altro po' e parlare con le ragazze di tante cose, ma sapeva che era meglio filarsela prima che arrivasse qualcuno a costringerla a cedere il suo bottino. E quindi sgattaiolò via in quel tramonto pungente, silenziosa e furtiva come era arrivata. Non appena la canonica scomparve alle sue spalle, si sedette a togliersi calze e scarpe e le mise nel cestino delle aringhe. Non aveva nessuna intenzione di indossarle sulla strada fangosa del porto. Doveva conservarle per le occasioni speciali. Nessun'altra bambina giù al porto aveva delle calze nere di cashmere così eleganti e delle scarpe così belle e quasi nuove. Lida era a posto fino all'estate e non si fece il minimo scrupolo. Ai suoi occhi, gli inquilini della canonica erano favolosamente ricchi e senza dubbio quelle ragazze avevano mucchi di scarpe e di calze. Lida corse quindi in paese a Glen. E passò un'ora a giocare con i ragazzi di fronte al negozio del signor Flegg, sguazzando in una pozza melmosa con il più esuberante di loro, finché la signora Elliot non passò di là e la rispedì a casa sua. Non credo che avresti dovuto farlo, Faith, disse una in tono di lieve rimprovero, dopo che Lida se ne fu andata. Adesso dovrai indossare gli stivaletti buoni tutti i giorni e li rovinerai nel giro di poco. Non mi importa, disse Faith, ancora esaltata per aver compiuto un gesto di gentilezza verso un'altra povera creatura. Non è giusto che io abbia due paia di scarpe quando Lida Marsh non ne ha neanche uno. Adesso ne abbiamo entrambe un paio. Sai benissimo anche tu quel che papà ha detto nel suo sermone domenica scorsa, che non c'è vera gioia nell'avere o nel conquistare, ma solo nel dare. Ed è vero, non sono mai stata così felice in vita mia. Pensa a Lida che sta tornando a casa con i suoi poveri piedini ben al caldo e comodi. Lo sai che non hai un secondo paio di calze nere di cashmere, disse una. Quell'altro che avevi era così pieno di buchi che zia Marta ha detto che non riusciva più nemmeno a guardarlo e ne ha fatto degli strofinacci. Hai solo quelle due paia di calze a righe che detesti. Tutta l'esaltazione e l'estasi di Faith svanirono. La sua felicità si sgonfiò come un palloncino. Rimase seduta per qualche minuto in silenzio a soppesare le conseguenze del suo gesto impulsivo. Oh, una, non ci avevo pensato, disse addolorata. Non ci ho riflettuto neanche per un secondo. Le calze a righe erano spesse, pesanti, ruvide e a costine blu e rosse. Zia Marta le aveva fatte a maglia per Faith quell'inverno ed erano indiscutibilmente orribili. Faith le detestava come non aveva mai detestato nient'altro prima e non aveva mai avuto alcuna intenzione di metterle. Erano ancora intonse nel cassetto della sua scrivania. Alla fine dovrai metterle, disse una. Pensa a quanto rideranno i ragazzi a scuola. Ricordi come hanno preso in giro Mammy Warren quando ha messo le sue a righe? La chiamavano colonnina da barbiere. E le tue sono molto peggio. Non le metterò, disse Faith. Andrò a piedi nudi anche se fa freddo. Ma non puoi andare a piedi nudi in chiesa domani, pensa a cosa dirà la gente. Allora resterò a casa. Non puoi, lo sai che zia Marta ti costringerà ad andare. Faith lo sapeva bene. E l'unica cosa che zia Marta si dava la pena di controllare era che loro andassero sempre in chiesa con la pioggia o con il sole. Come erano vestiti o se lo erano invece non le interessava granché, ma dovevano andarci. Così era stata educata lei 70 anni prima e così aveva intenzione di educare quei bambini. Tu non ne hai un paio da prestarmi una? La implorò la povera Faith. Una scosse la testa. No, lo sai che ho soltanto quel paio nero e mi vanno già così piccole che a malapena riesco a metterle. Non ti entrerebbero mai. E neanche quelle grigie, che comunque sono piene di buchi. Quelle a righe non le metto, disse Faith testarda. Averle addosso è anche peggio che guardarle. Mi fanno sentire come se avessi delle gambe giganti e poi pizzicano. Beh, io non so proprio come potresti fare. Se papà fosse a casa gli chiederei di comprarmene un paio nuovo prima che chiudano i negozi, ma oggi tornerà tardi. Glielo chiederò lunedì e domani non andrò in chiesa. Fingerò di stare male e zia Marta dovrà lasciarmi a casa. Ma sarebbe una bugia, Faith, esclamò una. Non puoi farlo. Lo sai che è una cosa brutta. Cosa direbbe papà se lo sapesse? Ricordi quando ci ha parlato dopo che la mamma era morta? Ci ha detto che dobbiamo sempre dire la verità, qualsiasi cosa accada, e che non dobbiamo mai dire bugie o fingere, e che lui si fidava che non l'avremmo mai fatto. Non puoi mentire, Faith. Mettiti le calze a righe solo per questa volta. In chiesa non ci baderà nessuno, non è come a scuola. E poi il tuo vestito nuovo marrone ha la gonna così lunga che non si vedranno molto. Che fortuna che la zia Marta l'abbia fatto più grande per fartici crescere dentro, anche se all'inizio lo hai odiato per questo. Non me le metto quelle calze, ripeté Faith. Poi tirò giù le gambe nude dalla tomba e cominciò a camminare nell'erba fredda e umida verso il cumulo di neve. Strinse i denti, ci salì sopra e si fermò. Che stai facendo? Esclamò una inorridita. Morirai di freddo, Faith Meredith. È proprio quello che sto tentando di fare, rispose lei. Spero di prendermi un bel raffreddore, così domani starò malissimo e non dovrò dire una bugia. Resterò qui in piedi finché resisto. Faith, guarda che puoi morire davvero. Potresti prenderti la polmonite, per favore, non lo fare. Torniamo a casa e cerchiamo qualcosa con cui coprirti i piedi. Guarda, arriva Jerry. Ah, meno male. Jerry, fai scendere Faith da quella neve, guarda i suoi piedi. Santo cielo, Faith, ma che stai facendo? Chiese Jerry. Sei impazzita? No, vattene, sbottò lei. È una punizione per qualcosa? Se è così non va bene, potresti ammalarti. Non è una punizione, voglio proprio ammalarmi, vattene via. Ma dove sono le sue scarpe e le calze? Chiese Jerry a una. Le ha date a Lida Marsh. Lida Marsh? Perché? Perché Lida non ne aveva e aveva i piedi freddissimi e adesso lei vuole ammalarsi per non dover andare in chiesa domani con indosso le calze a righe. Ma Jerry potrebbe morire. Faith, disse Jerry, scendi da quella neve o ti tiro giù io. Non ti avvicinare, lo minacciò Faith. Jerry balzò in avanti, l'afferrò per le braccia e prese a tirare mentre Faith tirava in direzione opposta. Una le corse alle spalle e la spinse in avanti. Faith gridò a Jerry di lasciarla stare. Jerry le rispose urlando di non fare l'idiota e una scoppiò a piangere. Sollevarono un gran baccano proprio vicino alla recinzione del cimitero. Harry Warren e sua moglie li videro e li sentirono mentre passavano e nel giro di poco tutta Glen seppe che i bambini della canonica avevano litigato come pazzi nel cimitero e si erano urlati parole irripetibili. Nel frattempo Faith aveva consentito a scendere dal ghiaccio perché i piedi le facevano così male che stava comunque pensando di farlo in ogni caso. Rientrarono tutti in casa dopo essersi riappacificati e andarono a dormire. Faith dormì come un angioletto e la mattina dopo si svegliò senza nemmeno un sintomo di raffreddore. Ricordava il discorso che suo padre aveva fatto tanto tempo prima e sapeva di non poter fingere di stare male e dire una bugia, ma era comunque determinata a non indossare quelle orribili calze a righe in chiesa. Un altro scandalo e un altro chiarimento. Faith arrivò prestissimo alla scuola domenicale e si sedette in un angolo prima che entrassero tutti gli altri. Nessuno quindi si accorse della terribile verità finché lei, al termine della lezione, non lasciò il suo posto accanto alla porta per recarsi al banco riservato agli inquilini della canonica. La chiesa era già piena per metà e tutti quelli seduti vicino alla navata videro che la figlia del pastore aveva gli stivaletti ai piedi ma non portava le calze. Il nuovo vestito marrone di Faith, che la zia Marta aveva cucito imitando un vecchissimo modello, le stava assurdamente grande ma comunque non arrivava fino ai piedi e lasciava scoperti 2 centimetri buoni di gambe nude. Faith e Carl erano da soli nel banco della canonica. Jerry era andato in galleria a sedersi vicino a un suo amico e le ragazze Blythe avevano portato una al loro banco. I bambini Meredith avevano il permesso di sparpagliarsi per tutta la chiesa e un sacco di gente lo considerava inappropriato, specialmente la galleria dove si radunavano tutti i ragazzi più irresponsabili che bisbigliavano e pareva masticassero tabacco durante la funzione. Non era considerato posto per il figlio di un pastore, ma Jerry detestava il banco della canonica, che era proprio in prima fila sotto gli occhi del signor Clow e della sua famiglia, e lo evitava tutte le volte che poteva. Carl era assorto a osservare un ragno che tesseva la sua tela alla finestra e non notò le gambe di Faith, che dopo la messa tornò a casa con suo padre, il quale a sua volta non si accorse di nulla. Prima che Jerry e Una arrivassero, indossò le odiate calze a righe, perciò lì per lì nessuno degli inquilini della canonica si rese conto di cosa aveva fatto. Ma il resto di Glen St. Mary ne era ben cosciente. I pochi che non l'avevano vista vennero a saperlo presto e lungo la strada di ritorno alle rispettive case non si parlò d'altro. La signora Davis disse che bisognava aspettarselo e che la prossima volta qualcuno di quei giovinastri si sarebbe presentato in chiesa senza niente addosso. La presidente della società di mutuo soccorso decise che avrebbe sollevato la questione al prossimo incontro e suggerì di andare tutte insieme dal ministro per protestare. La signorina Cornelia disse che lei da parte sua ci rinunciava. Non serviva a nulla continuare a preoccuparsi per i ragazzi della canonica. Persino la signora Blythe parve un po' sconvolta, ma attribuì il fatto alla semplice sbadataggine di Faith. Susan non poteva mettersi subito a lavorare un paio di calzamaglia per Faith perché era domenica, ma il giorno successivo, prima ancora che gli altri abitanti di Ingleside si alzassero, ne aveva già imbastito uno. Dica quello che vuole, signora dottora cara, io lo so che è colpa della vecchia Marta, disse ad Anna. Immagino che quella povera bambina non avesse calze decenti da mettere perché quelle che ha sono piene di buchi e lo sa anche lei che è così. E io credo, signora dottora cara, che la società di mutuo soccorso farebbe meglio mettersi all'opera per farne qualche paio invece di litigare per il nuovo tappeto del pulpito della chiesa. Io non sono un membro della società, ma farò due paia di calze per Faith con questa bella lana nera. Saranno pronte il prima possibile, ci può contare. Non dimenticherò mai lo stupore che ho provato, signora dottora, quando ho visto la figlia del pastore percorrere la navata della nostra chiesa senza calze. Non sapevo proprio dove guardare. E ieri c'erano anche un sacco di metodisti, brontolò la signorina Cornelia, che era venuta a Glen a fare compere ed era passata da Ingleside per discutere della faccenda. Non so come sia possibile, ma state sicure che quando quei ragazzini della canonica fanno qualcosa di orribile, la chiesa è sempre piena di metodisti. Ho seriamente pensato che alla moglie del diacono Hazard saltassero fuori gli occhi dalle orbite. Quando è uscita ha detto: "Beh, è stato uno spettacolo indecente. Questi presbiteriani mi fanno quasi compassione." E noi abbiamo dovuto incassare. Non potevamo rispondere nulla. Se l'avessi sentita io, signora dottora cara, avrei trovato senz'altro qualcosa da dirle, disse Susan con aria truce. Per esempio, le avrei detto che secondo me le calze con i buchi sono altrettanto indecenti che le gambe nude. E poi che i presbiteriani non hanno bisogno della compassione di nessuno, visto che hanno un pastore che sa predicare, mentre i metodisti non ce l'hanno. L'avrei rimessa a posto la moglie del diacono Hazard, signora dottora cara, ci può contare. A volte vorrei quasi che il signor Meredith predicasse un po' peggio e si curasse un po' meglio della sua famiglia, rispose la signorina Cornelia. Potrebbe almeno dare un'occhiata ai suoi figli prima che vadano in chiesa per assicurarsi che siano vestiti come si deve. Sono stanca di trovare scuse per il suo comportamento, credete a me. Intanto, nella valle dell'arcobaleno, l'animo di Faith veniva messo a dura prova. Era arrivata Mary Vance e, come al solito, era in vena di dare lezioni. Fece capire a Faith che aveva disonorato se stessa e suo padre oltre ogni possibilità di rimediare e che con lei Mary Vance aveva chiuso. Tutti stavano parlando dell'accaduto e tutti dicevano la stessa cosa. Purtroppo credo di non poterti più frequentare, concluse. Vorrà dire che la frequenteremo noi, esclamò Nan Blythe. Anche lei segretamente pensava che Faith avesse fatto una cosa terribile, ma non aveva intenzione di permettere a Mary Vance di comportarsi in quella maniera superba. E se tu non vuoi, allora risparmiati il disturbo di venire nella valle dell'arcobaleno, signorina Vance. Nan e Dee abbracciarono Faith e guardarono Mary con aria di sfida, e lei di colpo crollò, si sedette su un ceppo e cominciò a piangere. Io non vorrei farlo, singhiozzò, ma se continuo a frequentare Faith, la gente dirà che sono io a metterle in testa certe idee. Qualcuno lo dice già, quant'è vero che sono viva. Non posso permettermi che parlino così di me, adesso che abito in una casa rispettabile e sto cercando di comportarmi da signora. E comunque, nemmeno nei miei giorni peggiori sono mai andata in chiesa senza calze. Non mi sarebbe mai venuto in mente di farlo. Però quell'odiosa vecchia di Kitty Alec dice che Faith non è più stata la stessa da quando io sono arrivata alla canonica e che Cornelia Elliot maledirà il giorno in cui mi ha presa in casa. Mi ferisce tantissimo, sapete. Ma quello che mi preoccupa veramente è il signor Meredith. Non c'è bisogno che ti preoccupi per lui, disse disprezzante. Non è proprio necessario. Adesso, Faith cara, smettila di piangere e dici perché l'hai fatto. Tra le lacrime, Faith raccontò tutto. Le ragazze Blythe la capirono e persino Mary Vance ammise che era una situazione difficile. Jerry invece si sentì quasi colpito da un fulmine e rifiutò di calmarsi. Ecco cosa volevano dire le allusioni che aveva sentito a scuola quel giorno. Riportò Faith e Una a casa senza tante cerimonie e il club della buona condotta tenne una sessione straordinaria nel cimitero per discutere il caso di Faith. Secondo me non ho fatto male a nessuno, disse lei in tono di sfida, e poi non si vedeva quasi niente delle mie gambe. Non ho sbagliato e non ho danneggiato nessuno. Ma questa cosa danneggerà papà, lo sai. Sai che la gente dà sempre la colpa a lui quando noi facciamo qualcosa di strano. Oh, non ci avevo pensato, mormorò Faith. È questo il problema, non ci hai pensato e avresti dovuto. È a questo che serve il club, per educarci e costringerci a pensare. Abbiamo promesso di fermarci un momento a riflettere prima di agire. Tu non l'hai fatto e ti meriti una punizione, Faith. E anche molto dura. Dovrai indossare le calze a righe a scuola per una settimana. Oh, Jerry, no. Non basta un giorno, al massimo due, non una settimana intera. Sì, invece, una settimana, disse Jerry inesorabile. E la punizione è giusta. Chiedi a Jen Blythe se hai dubbi. Faith pensò che preferiva obbedire piuttosto che chiedere il parere di Jen Blythe sulla questione. Stava cominciando a realizzare di aver fatto qualcosa di davvero vergognoso. Va bene, lo farò, mormorò un po' imbronciata. E te la stai cavando con poco, disse Jerry severo. Qualsiasi sia la tua punizione non aiuterà papà. La gente penserà sempre che l'hai fatto per capriccio e daranno la colpa a lui per non averti fermata. Non potremmo mai spiegare a tutti come stanno le cose. Quel dettaglio occupò la mente di Faith. Poteva sopportare la sua condanna, ma non che suo padre si prendesse la colpa. Se la gente avesse saputo la verità, non l'avrebbe incolpato. Ma come poteva farla sapere a tutti? Alzarsi in chiesa e spiegare la faccenda, come aveva già fatto una volta, era fuori questione. Faith aveva saputo da Mary Vance quello che la congregazione pensava dell'accaduto e aveva capito di non poterlo rifare. Rimuginò quel problema per 3 giorni, poi ebbe un lampo di ispirazione e si mise all'opera. Passò la serata in soffitta con una lampada e un quaderno, intenta a scrivere con le guance in fiamme e gli occhi lucenti. Ecco la soluzione. Com'era stata astuta a pensarci. Avrebbe rimesso le cose a posto. Poteva spiegare tutto senza suscitare nuovi scandali. Finì alle 11 di sera e andò a letto soddisfatta e stanca morta, ma al colmo della felicità. Pochi giorni dopo, l'ultima edizione del piccolo settimanale del paese, il Journal, uscì come al solito e fece scalpore in tutta Glen. Al centro della prima pagina c'era una lettera firmata Faith Meredith, che diceva così: A tutti gli interessati. Voglio spiegare com'è successo che sono andata in chiesa senza le calze, così tutti sapranno che non è stata colpa di papà e le vecchie pettegole non potranno dire che lo è perché non è vero. Ho dato il mio unico paio di calze nere a Lida Marsh perché lei non ne aveva e i suoi piedini erano gelati e mi dispiaceva per lei. In una comunità cristiana nessun bambino dovrebbe andarsene in giro senza scarpe e senza calze quando la neve non si è ancora sciolta e secondo me la società missionaria femminile avrebbe dovuto dargliele. Ovviamente so che mandano un sacco di cose ai poveri bambini pagani e va benissimo, è una cosa bella da fare. Però nei paesi di quei bambini pagani fa molto più caldo che da noi, perciò secondo me le signore della nostra parrocchia dovrebbero occuparsi di Lida invece di lasciare che lo faccia io. Quando le ho dato le calze avevo dimenticato che era l'unico paio nero che avevo senza buchi. Però sono comunque contenta di avergliele date, perché non sarei stata a posto con la mia coscienza se non l'avessi fatto. Quando è andata via così orgogliosa e felice, poverina, mi sono ricordata che le uniche calze che avevo da mettermi erano quelle orribili blu e rosse che mi ha fatto la zia Marta l'inverno scorso con della lana che ci aveva spedito la moglie di Joseph Burr, che vive nella parte alta di Glen. Era una lana molto ruvida e piena di nodi e io non ho mai visto i figli della signora Burr indossare nulla che sia stato fatto con quella. Mary Vance dice che la signora Burr regala ai pastori le cose che non uso, che non può mangiare e pensa che conti come parte dello stipendio che suo marito ha accettato di pagare. Ma non è così. Il punto è che non ce la facevo a mettere quelle orribili calze. Sono così brutte e ruvide e pungono. Mi avrebbero preso in giro tutti. All'inizio ho pensato di fingere di essere malata per non andare in chiesa, ma poi ho deciso che non potevo farlo perché avrei dovuto dire una bugia e dopo che la mamma è morta, papà ci ha detto che è una cosa che non dobbiamo mai fare. Fingere è brutto come dire una bugia, anche se ci sono un sacco di persone che conosco qui a Glen che fingono sempre e non mi pare che si sentano in colpa per questo. Non farò nomi, ma so benissimo chi sono e anche papà. Allora ho provato a prendermi raffreddore per essere malata per davvero, salendo a piedi nudi su un cumulo di neve che sta nel cimitero dei metodisti. Ma Jerry mi ha fatto scendere e comunque non mi sono presa niente, perciò non avevo scuse per non andare in chiesa. A quel punto ho deciso di mettermi gli stivaletti e andare così. Non ho capito perché era una cosa così sbagliata. Mi sono lavata bene tutte le gambe prima. Ma in ogni caso non è stata colpa di papà. Lui era nel suo studio a pensare al sermone e ad altre cose celestiali e io mi sono tenuta alla larga finché non sono andata alla scuola domenicale. Papà poi non guarda le gambe della gente in chiesa, perciò non ha notato le mie. Invece tutte le pettegole sì e ne hanno parlato ed è per questo che ho deciso di scrivere una lettera al Journal per spiegarmi. Immagino di aver fatto una cosa sbagliata, visto che lo dicono tutti e mi dispiace e sto indossando quelle orribili calze per punizione. Anche se papà me ne ha comprate due paia nere bellissime appena il negozio del signor Flegg ha riaperto lunedì mattina. Insomma, è stata tutta colpa mia. E se la gente continuerà a dare la colpa a papà dopo che avranno letto questa lettera, vuol dire che non sono dei veri cristiani e quindi non mi interessa cosa dicono. C'è un'altra cosa che voglio spiegare prima di smettere. Mary Vance mi ha detto che Evan Boyd pensa che siano stati i figli di Lew Baxter a rubare le patate dal suo campo lo scorso autunno. Ma loro non hanno toccato le sue patate. Sono poveri, ma sono onesti. Siamo stati noi, io, Jerry e Carla. Una in quel momento non c'era. Però non pensavamo che quello fosse rubare. Volevamo solo delle patate da arrostire sul fuoco nella valle dell'arcobaleno per mangiarle una sera insieme alle trote fritte. Il campo del signor Boyd era il più vicino, è tra la valle e il paese, perciò abbiamo scavalcato la staccionata e abbiamo raccolto qualche patata. Erano piccolissime perché il signor Boyd non ci mette abbastanza fertilizzante e abbiamo dovuto tirarne fuori un sacco prima di averne a sufficienza e comunque erano grandi come biglie. Walter e Dee Blythe le hanno mangiate con noi, ma sono arrivati quando le avevamo già arrostite, perciò non sapevano da dove venivano e non hanno colpe. Non volevamo fare del male a nessuno, ma se è stato davvero un furto ci dispiace e ripagheremo il signor Boyd, solo che dovrà aspettare che diventiamo grandi. Adesso non abbiamo soldi, perché non possiamo guadagnarceli. E la zia Marta dice che ogni singolo centesimo dello stipendio del nostro povero papà, anche quando glielo pagano regolarmente, il che non avviene spesso, se ne va per mandare avanti la casa. Però il signor Boyd non deve più dare la colpa ai figli di Lew Baxter, perché sono innocenti e così gli rovina la reputazione. Rispettosamente, Faith Meredith. La signorina Cornelia cambia idea. Susan, dopo morta credo che tornerò sulla terra tutte le volte che i narcisi di questo giardino ondeggiano al vento, disse Anna in un momento di rapimento. Non mi vedrà nessuno, ma sarò qui. E se per caso in giardino ci sarà qualcuno, potrei arrivare in una sera come questa, ma anche allo spuntare del sole, in un'adorabile alba primaverile rosa pallido, vedrai i narcisi ondeggiare furiosamente, come sospinti da un vento più forte. E invece sarò io. Signora dottora cara, di certo dopo morta non le importerà di qualcosa di così mondano come i narcisi, disse Susan. E poi io non credo ai fantasmi, visibili o invisibili che siano. Ma Susan, non sarei mica un fantasma? Che brutto anche solo dirlo. Sarò io. E me ne andrò in giro all'alba o al tramonto per ritrovare tutti i posti che amo. Ricordi quanto ho sofferto quando ho lasciato la nostra piccola casa dei sogni, Susan? Pensavo che non avrei mai potuto amare Ingleside in quel modo. E invece è così. Adoro ogni centimetro del terreno su cui sorge, ogni ramo, ogni pietra. Piace molto anche a me, disse Susan, che sarebbe morta piuttosto che andarsene di lì, ma non bisogna affezionarsi troppo alle cose terrene, signora dottora cara. Il pericolo di incendi o di terremoti è sempre dietro l'angolo. Bisogna essere preparati. 3 notti fa è bruciata la casa dei McAllister dall'altro lato della baia. Alcuni dicono che sia stato Tom McAllister a darle fuoco di proposito per avere i soldi dell'assicurazione. Può darsi, oppure no. In ogni caso ho consigliato al dottore di far controllare subito i camini. Prevenire è sempre meglio che curare. Ma vedo che c'è la signora Elliot al cancello e mi pare parecchio agitata. Anna cara, hai visto il journal di oggi? La voce della signorina Cornelia tremava per l'emozione e anche perché era venuta di corsa dal negozio ed era senza fiato. Anna si chinò sui narcisi per nascondere un sorriso. Insieme a Gilbert aveva riso di cuore e senza pietà sulla prima pagina del journal di quel giorno, ma sapeva bene che per la signorina Cornelia sarebbe stata una sorta di tragedia e non voleva ferire i suoi sentimenti mostrandosi frivola. Non è terribile. Cosa possiamo fare? Chiese la signorina Cornelia disperata. Si era ripromessa di smettere di preoccuparsi per gli scherzi dei ragazzi della canonica, ma alla fine si preoccupava lo stesso. Anna le fece strada fino alla veranda dove Susan stava lavorando a maglia, con Shirley da un lato e Rilla dall'altro che studiavano i rispettivi abecedari. Stava finendo il secondo paio di calze per Faith. Susan non perdeva tempo a preoccuparsi, faceva del suo meglio per migliorare le cose e lasciava il resto a Nostro Signore. Cornelia Elliot pensa di essere nata per governare questo mondo, signora dottora cara, aveva detto una volta ad Anna. Per questo rimugina sempre qualcosa nella sua testa. Io invece non l'ho mai pensato e vivo molto più tranquilla. Non dico che non mi passi mai per la testa che le cose possano essere gestite meglio di come sono, ma è meglio che dei poveretti come noi lasciino perdere certi pensieri. Ci mettono solo a disagio e non ci portano da nessuna parte. Non credo che ci sia niente da fare in questo caso, disse Anna, offrendo una bella poltrona comoda alla signorina Cornelia. Però, com'è possibile che il signor Vickers abbia consentito a stampare quella lettera? Ero convinta che avesse più buon senso. Al momento non c'è, Anna cara. Se n'è andato nel New Brunswick per una settimana e quel giovane mascalzone di Joe Vickers che pubblica il journal in sua assenza. Certo che il signor Vickers non l'avrebbe mai pubblicata, anche se è metodista, ma Joe ha pensato che fosse un bello scherzo, come dici tu, non credo ci sia molto da fare ormai, solo lasciar correre. Ma se mai dovessi incontrare Joe Vickers in privato, gliene canterò quattro e di sicuro non so se lo dimenticherà mai. Ho detto a Marshall di disdire subito l'abbonamento al journal, ma lui si è messo a ridere e ha detto che il numero di oggi era l'unico di tutto l'anno che valesse la pena di leggere. Marshall non prende mai niente sul serio. Tipico degli uomini. Per fortuna anche Ivan Boyd è così. L'ha presa a ridere, ne parla chiunque ed è metodista pure lui. Quanto alla signora Burr, sua Glenn, di sicuro si infurierà e lascerà la parrocchia. Non che sia una gran perdita da tutti i punti di vista, i metodisti saranno felici di accoglierla. Le sta bene alla signora Burr, disse Susan, che aveva una vecchia faida aperta con la signora in questione e aveva apprezzato molto il riferimento a lei nella lettera di Faith. Così vedrà che i metodisti non le lasceranno certo barare sullo stipendio del pastore, accettando in cambio della lana malandata.